Letture di Radio 24. I veri superlettori sono le badanti straniere. Un'inchiesta di due associazioni romane, Nodi e Lipa, ha scoperto che le donne straniere che lavorano nelle nostre case sono affamate di libri. Iniziano a leggere per migliorare il loro italiano e poi ci prendono gusto. Così come nei vecchi ma buoni romanzi gialli l'assassino è sempre il maggiordomo, nell'Italia di oggi la lettrice forte è chi non te l'aspetti, o quasi. La badante straniera. Si tratta di una figura che qualche volta potremmo aver visto usare Skype per tenere i contatti con la famiglia lontana e qualche volta leggere i giornali gratuiti distribuiti in metropolitana. Tuttavia è un po' più difficile immaginarla immersa giorno dopo giorno nella lettura di un romanzo. Ma tant'è. Un'indagine dell'Assessorato alle politiche culturali della provincia di Roma ha portato alla luce che il 53% delle donne immigrate legge fino a 5 libri l'anno e il 16% arriva a oltre 20. In pratica sono lettrici forti, persino secondo i nostri parametri Istat. Alcune badanti di origine slava, poi, si rivelano essere lettrici fortissime, anche perché alle spalle hanno sovente una formazione o una professione di buon livello. Alcune dalla Bulgaria hanno dichiarato di leggere più di un centinaio di libri in un anno. L'indagine, svolta tra 100 tate, colf e badanti, di cui finora ne sono state censite più della metà, quindi tutto è da prendere più come segnale di una tendenza che come realtà di fatto, si concluderà nella primavera del 2011 ed è agganciata a una mostra bibliografica itinerante, nonché alla creazione di biblioteche pubbliche ad hoc, come le 8 biblioteche del mondo, con sezioni a Bracciano, Mazzano, Ladispoli, dove queste badanti della lettura possono prendere in prestito volumi in lingua madre. Anche se, come è stato raccontato una settimana fa durante l'incontro Lettrici del Mondo, all'ultima edizione di Più libri, più liberi, le nostre badanti preferiscono innanzitutto apprendere l'italiano, in un primo momento attraverso grammatiche e dizionari, poi migliorarlo curiosando nelle biblioteche delle case dove lavorano o sulle bancarelle di libri usati. La fonte di questa iniziativa è di prima mano. L'indagine, infatti, è stata condotta dalle associazioni romane Nodi e Lipa, entrambe impegnate sul fronte dei diritti e dell'integrazione e a stretto contatto con il mondo delle badanti. Ma una curiosità si pone subito. Che cosa leggono le badanti? Da un primo sguardo ai questionari compilati finora, sappiamo che quelle di prima generazione continuano a frequentare la letteratura a cui erano già affezionate nel loro paese d'origine. Libri spesso religiosi, come quelli di Karol Wojtyła o di Madre Teresa, oppure memoir, per esempio di attrici come Oona Pellea, piuttosto famosa in Romania, o di scrittori dell'Est come Miljenko Jergovic, pubblicato da noi da Zandonai o Shai Wheeler. Ci sono anche grandi nomi come Mircea Eliade, Eminescu, Lucian Blaga, Tolstoi, Pushkin, seguiti da libri di astrologia, salute, yoga. Discorso diverso per le badanti di seconda generazione. Tra le loro letture troviamo Il cacciatore di aquiloni, di Khaled Hosseini, la saga di Harry Potter, Oceano Mare, di Alessandro Baricco, Mia madre amava il mare, di Enzo Siciliano, e alcuni testi di Melania Mazzucco. Alla fine, la narrativa, al 22%, vince sulla poesia, al 17%, e sulla saggistica, al 16%. Si legge per lo più a casa, il 53% delle lettrici, e subito dopo sui mezzi pubblici, il 20%. È l'interrogazione fai da te, ci dice Vladimiro Polchi, autore di Blackout, Un giorno senza immigrati, pubblicato dalla Terza. Questa ricerca ci racconta di un'integrazione che nasce dal basso, dall'incontro tra lavoratrici straniere e famiglie italiane. Colf e badanti divorano poesie e romanzi, Facebook e giornali online, leggono per lo più in italiano e raccontano favole del proprio paese d'origine ai bambini che accudiscono. Troppo spesso la figura del migrante è appiattita sul lavoro che fa. Cercavamo braccia, sono arrivati uomini, con le loro passioni, curiosità, cultura. Avete ascoltato la lettura dell'articolo I veri superlettori sono le badanti straniere, a firma di Tommy Cappellini e pubblicato da Il Giornale del 20 dicembre. Letture di Radio 24. In principio fu la sparizione degli autobus a due piani, poi degli storici e comodi taxi neri, poi delle cabine telefoniche rosse English Style. Ora la Gran Bretagna decide di perdere anche la proprietà della Royal Mail e di venderla, per motivi di cassa, alle Poste tedesche. Dio salvi il francobollo della regina. Ma sembra molto difficile, quasi impossibile, che questo auspicio possa avverarsi. Ecco perché. Dall'anno del Penny Black, il primo francobollo con il volto di un sovrano britannico, allora toccò a Victoria, ogni re ha il sacrosanto diritto di finire su quel piccolo quadrato che gli inglesi da più di 150 anni incollano su buste e cartoline. Ma ora, per esigenze di bilancio, lo Stato vuole vendere la Royal Mail alla Deutsche Post, la consorella tedesca, ricca e prospera. Un oltraggio ai veri conservatori, agli anziani combattenti e reduci della Seconda Guerra Mondiale, alla paternalistica organizzazione britannica dove il postino, nei villaggi del Sussex o del Kent, suona sempre due volte e forse anche tre. A Palazzo Reale non hanno affatto condiviso l'iniziativa del governo bicolore e conservatore di Cameron e Clegg, due ragazzi altamente educati che sembravano rispettosi delle istituzioni e delle tradizioni. Le ricette dell'economia austera li hanno però costretti non solo a raddoppiare le spese universitarie, scatenando la protesta degli studenti, ma anche a disfarsi di un fardello come la Royal Mail. Nel suo prossimo discorso della corona, la regina Elisabetta dovrà annunciare per conto del premier, che le porterà un testo scritto, una politica di lacrime, sudore, sacrifici e rinunce, anche per il budget di palazzo, che sarà ridotto. Ascoltando i sit-in studenteschi, le radio private, le trasmissioni TV più irriverenti, i comizi davanti alle fabbriche in crisi, oppure leggendo la stampa sbarazzina, è tutto un proliferare di critiche, anche pesanti, alla casa regnante. Gli appannaggi appaiono eccessivi, visto che i Windsor sono già personalmente ricchi come Cresi. Lo stile di vita, il lusso, gli agi dei patrizi di corte indispettiscono parti sempre più consistenti della società. Elisabetta lo sa e non ha rinnovato alcunché nel suo guardaroba. Anche il principe Filippo, un po' incurvato, si è fatto risistemare gli abiti usati, comprese le divise militari per i funerali. Carlo, sempre uno degli uomini più eleganti del mondo, non ha convocato nella sua residenza alcun sarto di Savile Row. Nemmeno i nipoti si fanno troppo vedere da Annabels o negli altri ritrovi mondani di Londra. Per la prima volta nella sua vita, la regina ha paura del popolo, soprattutto dopo gli incidenti dei primi di dicembre, quando l'antica e luccicante Rolls-Royce nera di Carlo e Camilla è stata attaccata da un gruppo di studenti molto incavolati. Quell'auto dai grandi vetri sarebbe dovuta servire per trasportare il principe William e la futura consorte, Kate Middleton, nel giorno del matrimonio, il prossimo 11 aprile. Però non sarà così. Forse si opterà per una Jaguar di routine blindata. La sovrana teme un annus horribilis per il Regno Unito, provocato dai disordini anche durante il fausto evento. Fosse per lei, date le circostanze, rinvierebbe tutto a data da destinarsi. Queste nozze, si vocifera negli ambienti di corte, non la convincono del tutto. Né a lei, né al principe Filippo piace molto Kate. Troppo borghese, troppo ex reginetta di bellezza al St. Andrew's College, troppe arrampicate sociali. E che dire dei futuri consuoceri e dei loro parenti, compreso uno zio dai precedenti un po' torbidi. Insomma, la vicenda matrimoniale del giovane William, all'insegna di tanti avvenimenti negativi, semina pessimismo a palazzo. E sarebbe proprio un cattivo auspicio se le imponenti e stemmate buste bianche con gli inviti a nozze, da sempre consegnate dalla Royal Mail, non portassero i francobolli con il volto di Elisabetta, ma un anonimo quadratino multicolore made in Germany. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Dio salvi la regina sui francobolli», a firma di Carlo Rossella, e pubblicato dalla Stampa del 20 dicembre. Sei morti per congelamento in una settimana nelle nostre grandi città del nord. Gli ultimi casi a Varese e Torino, dove le temperature sotto lo zero hanno causato la morte, rispettivamente, di un clochard di 55 anni e di un senzatetto di 64. In un pianeta sempre più afflitto dagli effetti del benessere sconsiderato, dal caldo universale, dallo scioglimento dei ghiacci e dall'aumento delle temperature, la morte per freddo appare come un paradosso, al punto da precipitarci di colpo all'indietro, in un racconto di Gogol o in una fiaba di Andersen. Insomma, in un'era premoderna in cui un umile burocrate della Pietroburgo ottocentesca sferzata dal gelo poteva affidare la propria sopravvivenza a un cappotto nuovo fino a morire per la sua perdita, o nell'angosciosa atmosfera natalizia in cui si ritrova la celebre bambina dei fiammiferi, che si addormenta per sempre lungo la strada tra le allucinazioni prodotte dalla fame e dal freddo, mentre nelle case dei ricchi si mangia e si beve allegramente. È incredibile, ma non serve neanche un filo di retorica per constatare come si tratti di parabole eterne, incubi che partono da un tempo apparentemente remoto e arrivano a materializzarsi pari pari nell'Italia dell'inverno 2010. Sono passati anni, decenni, secoli, fino all'epoca delle più sofisticate tecnologie termiche. I doppi vetri e i condizionatori, le coibentazioni e i riscaldamenti a pannelli e a pavimento, gli infrarossi e le caldaie a biomassa o a condensazione. Eppure siamo drammaticamente fermi lì, più o meno ai bassi fondi di Balzac o di Gorky, dove il freddo non trovava ostacoli, uccideva e basta. Oggi, come allora, c'è gente che muore di gelo, anche nelle città frenetiche dei pacchetti regalo, in attesa che arrivi Babbo Natale a risollevarci provvisoriamente il morale. La notizia non è una sola, in realtà sono tante notizie, terrificanti. Un senza tetto di 64 anni, un italiano, precisano le agenzie, come se la nazionalità dovesse, potesse, volesse aumentare lo scandalo, è morto l'altra notte a Varese, nei dintorni del battistero, dove era solito dormire. Il cadavere di un 53enne, anche lui senza casa, è stato trovato a Torino, disteso in un giaciglio di fortuna, o piuttosto di sfortuna, dopo una notte in cui la temperatura ha toccato i meno 5. Varese, Torino e Milano. Non poteva mancare Milano, dove le vittime del freddo pare che siano più numerose che altrove. Un cingalese, di 46 anni, trovato senza vita, avvolto in una coperta nel parcheggio di un supermercato. Un clochard settantenne, che chiamavano il torinese, stroncato dal ghiaccio nella stazione centrale. Un'ex badante ucraina morta nei giardini pubblici, evidentemente non avendo trovato nessuno che le badasse, dopo aver badato clandestinamente per settimane, per mesi o per anni a un anziano o a un malato meno povero di lei che almeno in cambio di assistenza le assicurava da mangiare e da dormire. Si va a morire ovunque, nei pressi delle chiese e dei centri commerciali, nei giardini e nelle stazioni. Raramente negli ospedali, tantomeno gli immigrati clandestini, che temendo di essere denunciati, evitano anche i dormitori pubblici. In un servizio apparso su Avvenire, David Murgia raccontava di un gruppo di giovanissimi afghani che, nei pressi della stazione Ostiense di Roma, se ne vanno a dormire dentro i tombini, nei cantieri, sui treni, persino lungo i binari. Ma ancora una volta non serve neanche un filo di retorica per avvertire un brivido, e non certo di freddo, nel constatare come molte di queste notizie di sfinimento arrivino dalle grandi città, specie nel nord, le più ricche. Non serve retorica, né altro. Ognuno ne può trarre le sue considerazioni, tenendo conto che non sono notizie dell'altro mondo, ma di questo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Morire di freddo nelle città dei doppi vetri», a firma di Paolo Di Stefano, pubblicato dal Corriere della Sera del 20 dicembre. Quali sono le più frequenti ragioni per le quali uomini e donne si mettono a litigare? Lo spiega John Gray, psicosessuologo e terapeuta americano, nel suo bestseller Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Di solito gli uomini e le donne litigano per denaro, sesso, decisioni da prendere, educazione dei figli e responsabilità familiari. Tuttavia, le discussioni si trasformano in litigi dolorosi per un solo motivo: non ci sentiamo amati. Il dolore nasce dal non sentirsi amati, e quando una persona prova dolore ha molte difficoltà a trasmettere messaggi affettuosi. Poiché le donne non vengono da Marte, non capiscono distinto ciò di cui un uomo ha bisogno per affrontare con successo le divergenze. Idee, sentimenti e desideri divergenti sono ostacoli ardui per un uomo. Più si sente vicino a una donna, più gli risulta difficile affrontarli con successo. Quando si accorge che a lei non piace qualcosa che ha fatto, tende a sentirsi offeso e a pensare che in realtà ciò che a lei non piace è lui stesso. È probabile che in apparenza lui sembri litigare per la questione messa sul tappeto, denaro, responsabilità e così via, ma il vero motivo per cui ha sguainato la spada è che non si sente amato.